Elizabeth le aveva istintivamente voltato le spalle, ma fermatasi nel vederlo avvicinarsi, ricevette gli omaggi di lui con un imbarazzo che non le riuscì di superare. Se la sua improvvisa apparizione o la somiglianza col quadro che avevano appena ammirato non fossero bastate a garantire agli altri due che avevano davanti agli occhi il signor Darcy in persona, l'espressione di meraviglia del giardiniere nel contemplare il suo padrone avrebbe subito dovuto rassicurarli. Rimasero un poco in disparte mentre egli conversava con la loro nipote che, attonita e confusa, osava appena levare gli occhi fino ad incontrare quelli di lui, senza sapere che cosa stesse rispondendo alle sue cortesi domande sulla famiglia. Sbalordita com'era dal mutamento dei suoi modi da quando si erano lasciati l'ultima volta, ogni frase da lui pronunciata aumentava in lei l'imbarazzo. E mentre le si presentavano alla mente tutte le possibili riflessioni sull'incongruenza del suo trovarsi in quel luogo, i pochi istanti in cui continuarono la conversazione furono per lei fra i più penosi della sua vita. Né egli sembrava trovarsi molto più a suo agio. Parlando, il suo tono non aveva nulla della sua abituale compostezza e le domandò tante volte in che data avesse lasciato Longbourn e quanto intendesse fermarsi nel Derbyshire, da rivelare palesemente quanto lontano vagassero i suoi pensieri. Ogni ispirazione parve infine venirgli meno e dopo essere rimasto qualche istante senza dir parola, d'un tratto si riscosse e si accomiatò. Gli altri allora la raggiunsero per esprimere la loro ammirazione per la bellezza di lui, ma Elisabeth non udì neppure una parola e, completamente assorta nei propri pensieri, li seguì in silenzio. Si sentiva sopraffatta dalla vergogna e dalla stizza, sfortunata e sconsideratissima come l'essere venuta lì. Come doveva apparirgli strano, in qual luce sfavorevole doveva porla agli occhi di un uomo tanto altezioso. Poteva forse sembrargli che ella si fosse nuovamente posta di proposito sulla sua via. Perché era venuta? E perché egli era dunque giunto un giorno prima di quanto era atteso? Se avessero anticipato la loro visita di soli 10 minuti, sarebbero trovate al di là della portata del suo giudizio, poiché era chiaro che doveva essere giunto in quel momento. Essere sceso in quel momento da cavallo o dalla carrozza. Nuove vampe di rossore le salivano al viso, ripensando alla maligna sorte che li aveva fatti di nuovo incontrare. E che cosa poteva significare quell'impressionante mutamento di contegno? Era già da stupire che le avesse rivolto la parola, ma avergliela rivolta con tanta cortesia, poi informarsi della sua famiglia. Mai in vita sua lo aveva veduto così poco sostenuto di modi. Mai le aveva parlato con tanta affabilità come durante quell'incontro inatteso. Che contrasto col modo in cui l'aveva avvicinata nel parco di Rosings quando le aveva messo in mano quella lettera. Elisabeth non sapeva che pensare o come spiegarsi la cosa. Si erano intanto addentrati in un bel viale in riva al fiume e ogni passo li portava a un più o meno declivio del terreno, a un più diretto contatto coi boschi verso cui erano diretti. Ma ci volle un po' di tempo prima che Elizabeth potesse rendersi conto di tutto ciò, e benché rispondesse meccanicamente ai ripetuti appelli degli zii e volgesse in apparenza lo sguardo su quanto essi andavano additando alla sua attenzione, del paesaggio non si accorgeva nemmeno. Tutti i suoi pensieri erano concentrati su quell'unico punto del palazzo di Pemberley, qualunque esso fosse, in cui poteva trovarsi allora il signor Darcy. Ci struggeva dal desiderio di sapere che cosa si agitasse in quel momento nell'animo di lui, in che modo egli pensasse a lei e se ad onta di tutto gli fosse ancora cara. Forse era stato gentile soltanto perché si sentiva a suo agio, eppure c'era stato quel non so che nella sua voce che non somigliava a un senso di agio. Non avrebbe saputo dire se vedendola egli avesse provato più gioia o più dolore, ma quel che era certo era che non l'aveva veduta con animo indifferente. Finalmente, però, ridestata dalle osservazioni dei suoi compagni sulla sua distrazione, si rese conto della necessità di mostrarsi quella di sempre. Si addentrarono nei boschi e, dato per un momento l'addio al fiume, salirono su alcuni punti più elevati del terreno, da dove, quando le schiarite fra gli alberi lo consentivano, l'occhio poteva errare su molte belle vedute della vallata, sulle colline di rimpetto, in buona parte coperte di foreste, di tanto in tanto sul corso d'acqua. Il signor Gardiner espresse il desiderio di fare tutto il giro del parco, pur temendo che ciò fosse un po' più di una semplice passeggiata. Con un sorriso di trionfo gli fu risposto che il parco misurava 10 miglia di perimetro, il che risolse il problema. Continuarono perciò il giro consueto che li riportò dopo un poco discendendo un pendio attraverso la boscaglia in riva all'acqua in uno dei punti più stretti. L'attraversarono sul rustico ponte in carattere col tono generale del paesaggio. Era un luogo monotono di qualunque altro visitato fino allora. La valle, che si restringeva sino a divenire una gola, lasciava spazio sufficiente soltanto per il rio e uno stretto viottolo in mezzo al bosco ceduo che vi faceva orlatura. Elisabeth aveva un gran desiderio di esplorare i meandri, ma quando ebbero attraversato il ponticello e si furono resi conto di quanto distavano dal palazzo, la signora Gardiner, che non era una gran camminatrice, non si sentì di proseguire e non pensò più che a tornare alla carrozza il più presto possibile. La nipote dovette sottomettersi e si diressero dunque alla volta del palazzo sulla riva opposta del fiume, nella direzione più breve. Ma progredivano lentamente perché il signor Gardiner, amantissimo della pesca, sebbene solo di rado si concedesse quel gusto, si lasciava tanto assorbire dalla comparsa occasionale di qualche trota nell'acqua, commentandola con l'uomo che le accompagnava, che di strada ne facevano poca davvero. Mentre avanzavano così lentamente, furono di nuovo sorpresi, e anche questa volta lo stupore di Elizabeth fu pari a quello già provato prima, nel vedere il signor Darcy che si avvicinava ed era ormai a poca distanza da loro. Siccome poi il viale era in quel punto meno riparato che dall'altra parte, ciò permise loro di vederlo prima che si incontrassero. Per quanto meravigliata, Elizabeth era però più preparata di prima a un colloquio e decise di mostrarsi calma e di parlare tranquillamente, se davvero era nelle intenzioni di lui di avvicinarli. Infatti, aveva avuto per un attimo l'impressione che egli voltasse in qualche altro sentiero, ma l'idea durò soltanto finché una curva del viottolo lo nascose al loro sguardo. Superata la curva, egli si trovò subito faccia a faccia con loro. Le bastò un'occhiata per accorgersi che egli non aveva perduto nulla della sua affabilità di poc'anzi, e per imitare le sue belle maniere, cominciò ella pure, appena incontratolo, a decantare la bellezza del posto. Ma non era andata oltre i termini di delizioso e incantevole, che già si erano intromessi alcuni sfortunati ricordi, ed ella si immaginò che un elogio di Pemberley in bocca sua potesse venir male interpretato. Mutò colore e tacque. La signora Gardiner si era soffermata un poco più indietro, approfittando della pausa di Elizabeth, egli le domandò se gli avrebbe fatto l'onore di presentarlo ai suoi amici. Un tratto di cortesia al quale la giovane era assolutamente impreparata. Ella riuscì a stento a reprimere un sorrisetto nel vederlo desiderare la conoscenza proprio di quelle persone contro le quali il suo orgoglio si era rivoltato nel fare la proposta di matrimonio. Chissà come si stupirà, pensò, quando saprà chi sono. Li ha presi per gente del gran mondo. Ciò non di meno la presentazione ebbe subito luogo e nello specificare il rapporto di parentela che la vincolava loro, Elisabetta gli lanciò furtivamente uno sguardo malizioso per vedere come la prendeva, non senza aspettarsi che egli si dileguasse al più presto di fronte a compagni così disdicevoli. Che la parentela l'avesse sorpreso era evidente. Si fece animo, tuttavia, e lungi dall'allontanarsi si accostò maggiormente a loro e prese a conversare col signor Gardiner. Elisabeth non poteva a meno di essere soddisfatta, non poteva a meno di trionfare. Era già una consolazione che egli sapesse che aveva anche lei dei congiunti per i quali non era il caso di arrossire. Ascoltò con la massima attenzione il dialogo che si svolgeva fra loro, orgogliosa di ogni espressione, di ogni frase dello zio che sottolineasse la sua intelligenza, il suo buon gusto e la sua educazione. La conversazione passò subito alla pesca. Ed ella udì il signor Darcy invitarlo con la più squisita urbanità a pescare in quei luoghi ogni volta che gli facesse piacere, finché fossero rimasti nei dintorni, e offrirgli al tempo stesso gli arnesi da pesca, segnalandogli i punti del fiume più pescosi. La signora Gardiner, che camminava a braccetto con Elizabeth, le lanciò un'occhiata che esprimeva tutta la sua sorpresa. Elizabeth non disse nulla, ma provava una gran soddisfazione. Doveva essere tutto un omaggio reso a lei. Del resto continuava ad essere meravigliatissima e si ripeteva senza posa: come mai è così cambiato? Da che cosa viene un tal mutamento? Non può essere per me, non può essere per amor mio che ha tanto addolcito i suoi modi. I miei rimproveri di Hansford non possono aver operato un cambiamento di questo genere. È impossibile che mi ami ancora. Dopo aver passeggiato per un po' a quel modo, le due signore avanti e i due uomini dietro, nel riprendere i loro posti dopo essersi discesi fino in riva al fiume per meglio vedere certe strane piante acquatiche, Il caso volle che si verificasse un leggero cambiamento. Ne fu causa la signora Gardiner che, stanca della camminata della mattina, trovò il braccio di Elizabeth insufficiente sostegno e preferì quindi valersi di quello del marito. Il signor Darcy prese perciò il posto lasciato da lei accanto alla nipote e insieme proseguirono nella passeggiata. Dopo un breve silenzio, la signorina fu la prima a parlare. Desiderava informarlo di aver avuto precise assicurazioni sulla sua assenza prima di venire al castello e di conseguenza cominciò con l'osservare che il suo arrivo era stato una vera improvvisata, poiché la sua custode, soggiunse, ci disse che lei non sarebbe certo venuto fino a domani. E infatti, anche prima di lasciare Bakewell, c'era stato detto che non la si attendeva così presto in questi paraggi. Egli ammise che tutto ciò rispondeva a verità e aggiunse che certi affari col Castaldo l'avevano costretto a venire qualche ora prima del resto della comitiva con la quale aveva fatto il viaggio. Mi raggiungeranno domattina di buon'ora e fra loro c'è qualcuno che farà valere la sua conoscenza con lei, il signor Bingley e le sue sorelle. Elisabetta rispose soltanto con un leggero cenno del capo. I suoi pensieri furono ritrasportati di colpo al tempo in cui il nome del signor Bingley era stato fatto per l'ultima volta fra loro, e se doveva giudicare dal suo colorito, la mente di lui non doveva essere molto diversamente occupata. C'è anche un'altra persona della comitiva che desidera in modo particolare di farsi conoscere da lei. Mi permetterà, o le chiedo troppo, di presentarle mia sorella durante il suo soggiorno a Lambton? La sorpresa suscitata da tale domanda fu invero graditissima, troppo grande per lei per sapere cosa fare da consentire. Si rese immediatamente conto che, qualunque desiderio potesse provare la signorina Darcy di conoscerla, questo non poteva esserle stato ispirato che dal fratello, cosa che, senza andare molto più in là, era lusinghiera. La confortava il pensare che il risentimento non l'avesse indotto a pensare veramente male di lei. Proseguirono in silenzio, ciascuno immerso nei suoi pensieri. Elisabeth non si sentiva a suo agio, non era possibile, eppure era lusingata e soddisfatta. Il fatto che gli desiderasse di presentarle sua sorella era un complimento senza uguali. Superarono presto gli altri e quando giunsero alla carrozza, i signori Gardiner erano rimasti indietro di quasi mezzo miglio. Egli la pregò allora di entrare in casa, ma ella dichiarò di non essere stanca e rimasero insieme in piedi sul prato davanti al palazzo. In quegli istanti, molto si sarebbe potuto dire, e il silenzio era oltremodo imbarazzante. Elisabetta voleva conversare, ma su ogni argomento sembrava gravare una specie di veto. Finalmente si ricordò del proprio viaggio e si misero a parlare con grande insistenza di Matlock e di Dovedale. Eppure, come erano lenti a muoversi, il tempo e la zia. La pazienza e le idee le erano quasi venute meno prima che fosse terminato il loro tête-à-tête. Una volta che il signore e la signora Gardiner li ebbero raggiunti, vennero tutti sollecitati ad entrare in casa per ristorarsi un poco, ma si schermirono e il commiato fu estremamente cortese da ambo le parti. Il signor Darcy aiutò le signore a salire in carrozza e quando questa si mosse, Elizabeth lo vide allontanarsi a passi lenti, diretto verso casa. Cominciarono allora i commenti dello zio e della zia e ciascuno dichiarò essere il signor Darcy infinitamente superiore ad ogni loro aspettativa. È educatissimo, molto compito e non si dà molte arie. C'è effettivamente qualcosa di un tantino rigido in lui, precisò la zia, ma è soltanto questione di apparenza e non è disdicevole. Posso dire anch'io ora, con la custode che sebbene la gente lo accusi di superbia, io non l'ho affatto sperimentata in lui. Non mi sono mai tanto meravigliato come per il suo contegno nei nostri confronti. È stato più che gentile, addirittura premuroso, e non era il caso. La sua conoscenza con Elizabeth era superficiale. Certo, Lizzy, che non è bello come Wickham, o per meglio dire non ha l'espressione di Wickham, perché anche lui ha bellissimi lineamenti. Come mai mi avevi detto che era tanto antipatico? Elizabeth si scusò come meglio poté. Disse che già da quando l'aveva veduto nel Kent le era riuscito più simpatico di prima, ma che simpatico come quella mattina non l'aveva mai trovato. Può anche darsi che sia un po' capriccioso nel distribuire le sue cortesie. Questi grandi uomini lo sono spesso e volentieri, Perciò non voglio prendere la lettera circa la pesca, perché un altro giorno potrebbe aver cambiato parere e farmi cacciare fuori dalle sue terre. Elizabeth capì che avevano completamente frainteso il suo carattere, ma non disse nulla. Per quel che abbiamo visto di lui, non avrei mai pensato davvero che avesse potuto agire in modo così spietato come con quel povero Wickham. Non ha uno sguardo cattivo, anzi, quando parla, le labbra gli si atteggiano in modo gradevole. E c'è un che di dignitoso nel suo modo di fare che non dà alcuna impressione di durezza di cuore. Certo che la brava donna che ci ha mostrato il palazzo ha fatto del suo carattere un quadro quasi mai lusinghiero. Non so come ha fatto in certi casi a non scoppiare a ridere. Comunque deve essere un padrone generoso. Dote questa che rappresenta agli occhi di un servo il compendio di tutte le virtù. A questo punto, Elizabeth si sentì in dovere di dire qualcosa a giustificazione del contegno di Darcy nel riguardo di Wickham. Lasciò loro intendere, pertanto, con la massima cautela possibile, che da quando aveva sentito raccontare dai parenti di lui nel Kent, il suo modo d'agire era suscettibile di una ben diversa interpretazione. E che il carattere di Darcy non era affatto così biasimevole, né così lodevole quello di Wickham, come di essi si era giudicato nello Herefordshire. A conferma di ciò, rivelò i particolari delle faccende finanziarie che le avevano coinvolti, senza fare in realtà il nome della sua fonte di informazioni, ma affermando che era tale da potersene fidare. La signora Gardiner ne fu sorpresa e colpita, ma poiché stavano ormai avvicinandosi ai luoghi dei suoi passati svaghi, ogni pensiero cade di fronte al diletto delle rimembranze, troppo occupata com'era a indicare al marito tutti i luoghi interessanti nei dintorni per poter pensare ad altro. Nonostante la stanchezza per la passeggiata della mattina, non avevano ancora finito di pranzare, che subito si mise alla ricerca delle sue antiche conoscenze, e la serata trascorse nel piacere di una relazione riallacciata dopo molti anni di interruzione. Gli avvenimenti della giornata erano stati troppo densi di interesse per consentire a Elizabeth di prestare molta attenzione a quei nuovi amici. Ella non poteva far altro che pensare, e pensare con meraviglia, alla gentilezza del signor Darcy. E soprattutto al suo desiderio di farle fare la conoscenza di sua sorella. Capitolo 44. Elizabeth aveva calcolato che il signor Darcy avrebbe accompagnato sua sorella a farle visita l'indomani del suo arrivo a Pemberley e aveva deciso di conseguenza di non allontanarsi dalla locanda per tutta quella mattina. Ma era giunta a una conclusione errata, poiché i visitatori si recarono da lei nel pomeriggio stesso del giorno in cui erano arrivati a Lambton. Erano stati a zonzo per la cittadina con alcuni di quei nuovi amici e stavano appunto rientrando all'albergo a vestirsi per pranzare con quella medesima famiglia, quando il rumore di una carrozza li attrasse alla finestra e scorsero un signore e una signorina che risalivano la strada in un calessino. Elizabeth, che aveva immediatamente riconosciuto i colori della vettura, indovinò che cosa ciò significasse e lasciò non poco sorpresi i suoi congiunti informandoli dell'onore che l'attendeva. Gli zii erano al colmo dello stupore e l'imbarazzo di lei nel parlare, connesso alla circostanza stessa e a molte delle circostanze del giorno prima, aperse loro nuova luce sulla faccenda. Niente l'aveva mai lasciato supporre prima, ma in quel momento si resero conto che non c'era altro modo di spiegare simili attenzioni da così alte sfere, se non sospettando una simpatia per la loro nipote. E mentre andavano rimuginando quei nuovi pensieri, Elizabeth sentiva ad ogni istante aumentare il proprio turbamento. Era esterrefatta del suo stesso sgomento, e fra le altre cause di inquietudine, nutriva quella che l'inclinazione del fratello avesse parlato troppo in suo favore alla signorina Darcy, per cui, più desiderosa del solito di piacere, sospettava che le venisse meno ogni facoltà di riuscirvi. Si ritrasse dalla finestra temendo di essere veduta. Mentre passeggiava su e giù per la stanza, sforzandosi di darsi un contegno, notò negli zii certi sguardi di interrogativa sorpresa che peggioravano la situazione. La signorina Darcy e suo fratello comparvero e la straordinaria presentazione ebbe luogo. Con suo gran stupore, Elizabeth si accorse che la nuova conoscente era almeno altrettanto imbarazzata di lei. Da quando stava a Lambton aveva sentito dire che la signorina Darcy era quanto mai altezzosa. Ma le bastò osservarla pochi minuti per accorgersi invece che era soltanto timida al massimo grado. Trovò difficile cavare una parola che non fosse un monosillabo. La signorina Darcy era alta e di struttura più solida di Elizabeth. Benché contasse poco più di 16 anni, aveva una personcina formata, un aspetto femminilmente aggraziato. Era meno bella del fratello, ma aveva un'espressione intelligente e buona, un modo di fare estremamente semplice e cortese. Elizabeth, che si era aspettata di incontrare in lei un'osservatrice acuta e sicura, come era sempre stato il signor Darcy, provò gran sollievo nel trovarla tanto diversa. Non erano ancora insieme da molto che Darcy le annunziò prossima la visita di Bingley ed ella aveva appena avuto il tempo di esprimere la propria soddisfazione e di prepararsi a ricevere quella visita che il passo affrettato di Bingley si fece udire su per le scale. Un attimo dopo, egli comparve nella stanza. Tutto il rancore di Elizabeth per lui si era estinto da un pezzo, ma anche se ne avesse provato ancora, non avrebbe potuto resistere davanti alla spontanea cordialità con la quale egli si espresse nel rivederla. Chiese amichevolmente notizie di tutta la famiglia, senza entrare tuttavia in particolari, e parlando mostrava la stessa bonaria disinvoltura di un tempo. Per i signori Gardiner, egli era un personaggio non meno interessante che per Elizabeth. Da molto desideravano di conoscerlo. In verità, tutto il gruppo che avevano dinanzi era fatto per destare la loro più viva attenzione. I sospetti testé insorti sul conto del signor Darcy e la loro nipote li indussero a badare all'una e all'altra con viva, seppur guardinga, curiosità. E da quelle indagini trassero tosto la piena convinzione che dei due uno almeno sapesse che cosa vuol dire amare. Rimasero alquanto dubbiosi sui sentimenti della fanciulla, ma che il giovane fosse traboccante d'ammirazione era abbastanza chiaro. Elizabeth, per parte sua, aveva molto da fare. Voleva accertarsi delle reazioni di ciascuno dei suoi visitatori. Voleva placare le proprie e rendersi simpatica a tutti. E in quest'ultima bisogna, nella quale più che in ogni altra temeva di non riuscire, il suo successo era assicurato, giacché coloro ai quali essa si sforzava di piacere erano prevenuti favorevolmente nei suoi confronti. Bingley era pronta a trovarla simpatica. Georgiana lo desiderava e Darcy vi era fermamente deciso. Nel rivedere Bingley, i suoi pensieri corsero come era naturale alla sorella e come la struggeva il desiderio di sapere se anche la mente di lui fosse almeno in parte impegnata in quella direzione. Le parve talvolta che gli parlasse meno che per il passato e un paio di volte si compiacque di credere che guardandole egli cercasse di rintracciare una somiglianza. Ma per quanto tutto ciò potesse essere frutto della fantasia, ella non poteva ingannarsi a proposito del suo contegno con la signorina Darcy, che le era stata dipinta come la rivale di Jane. Non vi fu né da una parte né dall'altra neppure uno sguardo che tradisse una speciale simpatia, né si verificò fra loro nulla che potesse giustificare le speranze della signorina Bingley. Su questo punto ebbe modo di tranquillizzarsi subito e prima che si accomiatassero, accaddero due o tre fatterelli da cui nella sua trepida interpretazione Elizabeth si avvide che il ricordo di Jane appariva non spoglio di tenerezza e intuì in lui un desiderio di affrontare altri argomenti che potessero indurla a nominarla, se soltanto ne avesse avuto il coraggio. In un momento in cui gli altri stavano conversando fra di loro e con un accenno in cui suonava abbastanza vivo il rimpianto, le disse che era passato moltissimo tempo da che aveva avuto il piacere di vederla e prima che ella avesse il tempo di rispondergli soggiunse: «Sono più di 8 mesi. Non ci siamo più visti dal 26 di novembre, quando si ballò insieme a Netherfield». Elizabeth si compiacque di constatare tanta esattezza nella sua memoria e più tardi trovò modo di domandargli, mentre l'attenzione degli altri era distratta, se tutte le sue sorelle si trovavano a Longbourn. Non c'era granché nella domanda e neppure nell'osservazione di poco prima, ma uno sguardo e un tono che davano ad esse tutto un significato. Elizabeth non ebbe modo di volgere spesso gli occhi sul signor Darcy, però ogni volta che riuscì a guardarlo di sfuggita, notò in lui un'espressione di generico compiacimento. In tutto quel che egli diceva sentiva un accento così lontano da qualunque alterigia o disprezzo per i suoi interlocutori, da convincerla che il miglioramento di modi constatato il giorno prima, per quanto passeggero potesse rivelarsi, almeno un giorno era durato. Quando lo vide sollecitare la conoscenza e la buona opinione di persone con le quali soltanto pochi mesi prima dietro ogni rapporto gli sarebbe sembrato cosa sconveniente, quando lo vide così gentile non soltanto con lei, ma proprio con quegli stessi congiunti che gli aveva apertamente disdegnato, e rievocò la loro ultima vibrante scena al presbiterio di Handsworth, Si rese conto che il cambiamento e la differenza erano così enormi e se ne sentì così scossa che a stento riuscì a nascondere il proprio stupore. Mai, neppure in compagnia dei suoi cari amici di Netherfield, né in quella dei suoi nobili congiunti di Rosings, l'aveva visto così desideroso di piacere, così libero da qualsiasi sussiego, rigido e riservo come si mostrava ora, quando nessun vantaggio poteva derivargli dal successo dei suoi sforzi. E quando anzi il solo fatto di conoscere coloro che faceva segno delle sue attenzioni avrebbe attirato su di lui la derisione e la critica delle dame di Netherfield, nonché di quelle di Rosings. I visitatori si trattennero oltre mezz'ora. Quando si alzarono per salutare, il signor Darcy invitò la sorella ad unirsi a lui nell'esprimere il desiderio di avere a pranzo a Pemberley i signori Gardiner e la signorina Bennet prima che lasciassero quei luoghi. La signorina Darcy obbedì prontamente, sebbene con una così gran timidezza che lasciava capire come fosse poco avvezza a fare inviti. La signora Gardiner guardò la nipote per vedere come Elizabeth, a cui l'invito era essenzialmente rivolto, avrebbe reagito, ma ella si era voltata da un'altra parte. Ritenendo tuttavia che quel volersi esimere fosse piuttosto da ascriversi a un momentaneo imbarazzo che a un'ostilità vera e propria per la proposta, e scorgendo nel marito, persona socievolissima, una gran voglia di accettare, prese l'iniziativa di impegnarsi per tutti. Si combinò dunque per il dopodomani. Bingley espresse tutto il suo compiacimento all'idea di rivedere Elizabeth, poiché aveva ancora molte cose da dirle e molte domande da farle sul conto di tutti i loro amici nello Herefordshire. Elizabeth, che intuì in tutto ciò il desiderio di sentirla parlare della sorella, ne fu lieta e per questo motivo, non meno che per qualche altro, dopo che le visite se ne furono andate, si sentì in grado di considerare con una certa soddisfazione il modo in cui era trascorsa l'ultima mezz'ora, sebbene il divertimento in sé fosse stato relativo. Ansiosa di rimanere sola e temendo gli interrogatori o le allusioni degli zii, rimase con loro soltanto il tempo necessario per sentirli esprimere la loro favorevole opinione su Bingley e poi si ritirò in fretta a cambiarsi. Ma non aveva ragione di temere la curiosità dei Gardiner, non era loro intenzione forzarla a parlare, era chiaro che il signor Darcy la conosceva molto più a fondo di quanto non avessero mai supposto. Era evidente che egli era innamoratissimo di lei. V'era dunque molto di che interessarsi, ma nulla che giustificasse altre domande. Pensare bene del signor Darcy era ormai loro premura. Per quel che di lui avevano conosciuto, non trovavano nulla da ridire. Non potevano restare insensibili alla sua cortesia e se avessero dovuto tracciarne il carattere dalle loro impressioni personali o dal resoconto che ne aveva dato la custode, senza badarsi su qualcun'altra fonte di informazione, l'ambiente dello Herefordshire nel quale egli era noto non avrebbe riconosciuto in quella descrizione il signor Darcy. Tuttavia, avere ormai una ragione di interesse per prestare fede alla custode e si resero conto che la deposizione di una persona di servizio che l'aveva conosciuto fin da quando aveva 4 anni e che appariva degna di fede non poteva venire respinta alla leggera. Né per quanto constava ai loro amici di Lambton, v'erano state circostanze nella sua vita che potessero diminuirne il valore. Non avevano altre cause a suo carico se non una certa altezzosità. Probabilmente ne aveva davvero, e quando anche non ne avesse avuta, egli gli sarebbe stata certo impuntata dagli abitanti di una piccola città commerciale che la sua famiglia non frequentava. Era però universalmente conosciuto come persona generosa che faceva molto bene ai poveri. Per quanto concerneva Wickham, i viaggiatori si accorsero tosto che non godeva gran buona fama, poiché sebbene la cagione dei suoi dissensi col figlio del suo benefattore fosse assai imperfettamente conosciuta, era tuttavia ben noto che partendo dal Derbyshire si era lasciato molti debiti dietro le spalle che erano stati poi pagati dal signor Darcy. Quanto a Elizabeth, i suoi pensieri si indugiarono su Pemberley quella sera ancor più della precedente, e sebbene le ore le sembrassero lunghe a passare, non furono però abbastanza lunghe per consentirle di riordinare i propri sentimenti verso uno degli abitanti del palazzo. Anzi, rimase sveglia 2 ore di seguito a cercare di metterli in chiaro. Certo, non lo odiava. No, l'odio era da tempo svanito e da altrettanto tempo aveva provato vergogna di essere stata capace nei confronti di lui di un'antipatia così forte da meritare quel nome. Da tempo ormai il rispetto creato dalla convinzione delle sue apprezzabili doti, sebbene sulle prime ammesso controvoglia, aveva cessato di ripugnare ai suoi sentimenti ed era ora cresciuto fino a divenire qualcosa di più amichevole, grazie alle testimonianze del giorno prima, altamente in suo favore, e che avevano posto il suo carattere in una luce tanto simpatica. Ma al di sopra di tutto, al di sopra del rispetto e della stima, v'era ora in lei un motivo di benevolenza che non poteva sfuggirle. Era la gratitudine. Gratitudine non soltanto per averla una volta amata, ma per volerle ancora abbastanza bene da perdonarle tutta la veemenza e l'asprezza con cui le aveva respinto e tutte le ingiuste accuse con le quali aveva accompagnato il proprio rifiuto. Colui che ne era stata persuasa l'avrebbe evitata come la peggior nemica, si era rivelato in quel fortuito incontro quanto mai ansioso di mantenere la relazione senza indelicate dimostrazioni d'affetto né stravaganze di modi in una situazione che riguardava loro due soltanto. Si sforzava di ottenere la buona opinione degli amici di lei e si era piegato al punto di farla conoscere a sua sorella. Un simile cambiamento in un uomo tanto orgoglioso destava non soltanto sorpresa, ma gratitudine. Poiché all'amore, a un ardente amore, doveva essere ascritto, e in quanto tale l'impressione che aveva suscitato in lei era di quelle tutt'altro che sgradevoli, che piace incoraggiare, benché non sia facile definirle con esattezza. Lo rispettava, lo stimava, gli era riconoscente, il bene di lui le stava realmente a cuore, e avrebbe voluto sapere soltanto fino a qual punto ella si augurasse che quel bene dipendesse da lei e fino a qual segno per la felicità di entrambi, e le avrebbe dovuto valersi della facoltà che il presentimento le diceva di possedere ancora, di indurlo a rinnovare le sue profferte. Nel corso della serata fu stabilito fra zia e nipote che una così straordinaria cortesia come quella di cui aveva dato prova la signorina Darcy, recandosi da loro il giorno stesso del suo arrivo a Pemberley, dove era giunta infatti di mattina sul tardi, doveva essere imitata, anche se non poteva venire eguagliata, con una qualche particolare dimostrazione di urbanità da parte loro, e di conseguenza che sarebbe stata cosa quanto mai consigliabile recarsi a fare le visite a Pemberley l'indomani mattina. Vi sarebbero andate dunque. Elizabeth ne era lieta, benché domandandosene la ragione trovasse ben poco da darsi una risposta. Il signor Gardiner le lasciò subito dopo la prima colazione. Il progetto di andare a pesca era stato rinnovato il giorno innanzi ed egli aveva promesso di trovarsi con alcuni dei signori a Pemberley per mezzo dì.